stata una chiamata generale, ho detto ma in fondo c'era qualcuno che aveva la sindrome delle mosche. Ah, quella brutta, quella cosa che ogni tanto può capitare. A molti capita ogni papa, a molti capita ogni giorno, questo è abituato. Ah beh, sei divertente nel suo piccolo, è come una bella sindrome. Cara gara, ti sento più forte oggi. Stanno parlando troppo vicino al microfono. No, no, se mi fossi pure il segnale, così mi sento bene. No, e? Allora, così com'è? 1, 2, 3. Sento. È parlato di tanto, anzi. È proprio al minimo mi viene a dire che è il segnale più forte del solito. Perché la radio è più forte, più squillante. No, magari è un po' di tempo che non ci sentiamo, c'è buona propagazione e andrebbe così. Cosa sono qua? 18, no neanche, 15, picchi 40 e poi è il TL con l'M300. È bello quel microfono. No, questo qua è pagabile. Quando gli ho modificato due piccole fesserie dentro, la spingendo per una bellezza, solo che devo aggiungere un trimmer per il bilanciamento all'uscita del 3008, perché mi fa un leggero filo nel sottofondo e devo eliminarlo, devo bilanciare meglio. Vabbè, comunque in ogni caso quei microfoni sono sempre andati bene, su tutti gli apparecchi vanno bene, e sono alcuni di più, sono alcuni di meno, ma vanno bene su tutti. Il problema che hanno è le carbonelle del cursore, dello slider. Tieni conto che questo qua c'ha almeno 15 anni, Bagava. Buono. Non voglio dire fesserie, però 15 sono molto convinto. Che sono 15 fidanzate, ce l'avevo già. Bagava. Conosciuta tua moglie col microfono. Non ti picchiavo, ma che la ce l'aveva. Oh guarda, lasciamo perdere. La mia 50 adesso ancora mi tollera. Ti tollera, però non è d'accordo. Ma non ci crederai, usa più volentieri, magari un PMR o qualcosa del genere, ma non il CBT. No, no, mia moglie proprio l'usa, astemia. Piano piano, dai, c'è tempo. No, diciamo che ognuno ha i suoi spazi, quindi non mi dice nulla, però non è che lo sopporti molto. E anche sarà perché quando avevo fidanzato ci per macchina con l'antenna alta e cose, lei non voleva essere risagliati, tutte queste storie qua, non voleva che sapevamo dove andavamo, eccetera, eccetera. E in più perché era gelosa che c'erano le ragazze che lo facevano anche apposta, magari sapevano che c'erano le macchine, diceva doppio nudo stasera, ci vediamo lì. Ah ecco, figurati. A me lo stesso, mi hanno messo un'antenna che è 1,80 m, già lo fa notare il veicolo. Beh, la mia è 2 metri, no? Quella che c'è adesso è 2 metri, vabbè, era 1,70 m, quella che avevo, la Sigma DX. Figurati. Si fanno notare, vabbè, però a noi ci piace così. È chiaro che con l'antenna lunga rende di più e quindi la teniamo di più. Adesso tu pensa, poverina, la mia barra mobile c'ha un antennino che è una punta a 60 centimetri. No, io dico sempre una cosa, io ho la passione, lo faccio solo per passione, perché non sono mai stato nel rondo con i gusti e niente, però su questo ci tengo di più che alla macchina, ci tengo alla frequenza, se dico la verità. Mi piace uscire bene, che mi sentano tutti e tutto quanto, anche perché io viaggio per lavoro, quindi ti fa sempre compagnia. Ah Lì sono pienamente d'accordo con te, anch'io ci devo, ho dedicato sicuramente più tempo e più passione anch'io per la radio che per i veicoli o altro. Sono appassionato di moto, ma se devo fare proprio paragone, quanto tempo ho dedicato alla moto e quanto qua, qui mi metto a frugare, fare, disfare, tira e molla, fai disfa. Nella moto a un certo punto ti fermi, qui c'è la sbizzarrizia. Qua, nel campo è bassa. Anche nella moto, ce l'ho anche io la moto, quindi anche nella moto comincia a cambiare marmita, variatore, questo, quell'altro. Riesco a usi centralina, li fai lo scarico, tutte queste cose qua, ti esco le soldini anche lì. Vabbè, poi una volta fatto, se ti va bene, ti fermi, se poi inglippi, tocca rifare il palito. Anzi. No, vedi, vabbè, io sotto il punto di vista, quando poi sono passato alle cilindrate un po' più grosse, ho smesso di fare personalizzazioni marmite o roba del genere. Anzi, mi è venuta la mania di averla il più originale possibile, il più similare alla fabbrica, e poi fare magari delle piccole personalizzazioni estetiche a livello carene, plastico, cose del genere. Che moto c'hai? Adesso ho una Yamaha 1000. R1. Che è quella moto che piace a me? Ho la sorellina più vecchia, quella prima dell'R1. R6. No, sempre 1000, l'R6 e 600. Ah, non pensavo quella prima, nel senso come cilindrata. No, sempre 1000, però prima dell'R1 c'era una S di troppo. Meiaia. Capai, sì, ho capito quale. Il modello più vecchio, Comunque sono sempre valide. Ne hai due addirittura. No, questa te serve, mille. È una bella bambina, già fa la sua parte. È una vecchia passione, la mia 50 quando era la metà, 25, me l'ha regalata, perché sapeva che mi piaceva e ce l'ho ancora. Un bel regalo, Non gliene baciate i piedi. No, i piedi non gliene baciati, però un bacino già gliel'ho dato, dai. Solo e quando vi compri d'oro. Cavolo, un regalo da un po' di quattrini, Mettila così, era per me era un desiderio, perché di moto ne ho passate, avete 14 anni a salire, ne ho passati 50, 125, 750 casco, 750 da strada, 650 enduro, le ho provati un po' tutti. E però la strada era sempre strada. E quella mi piaceva perché c'avevo non so che. Poi è vero, la categoria è cambiata. L'R1 hanno accorciato il passo, l'hanno alleggerita, gli hanno dato 10 cavalli in più, poi 20 cavalli in più, poi 30 cavalli in più. Che la mia ne è 150, l'R1 di oggi mi pare che ha 190 cavalli. Vabbè. Lo so, basta andare su internet, io sono appassionato di quella moto, lo sai, non me l'ha mai fatta comprare mia moglie per paura che mi ammazza. L'R1? Figurati che non la conosco. Vai su internet e ti guardi un po' di filmati su YouTube dell'R1. L'ho guardata anch'io. Adesso abbiamo raggiunto un accordo con la mia 50 e ho definito che la do. Non do la 50, do la moto. Vai. Perché diciamo che è diventata un pochino scomoda, perché alla fine c'è la mia 50 lo scooterone e quindi abbiamo visto che è più comodo, quella moto lì diventa un po' troppo impegnativa, per passeggiare non è comoda, è sempre aggressiva, cammina troppo e sto optando per qualcosa di più soft. Io ho il Suzuki 400, un nuovo modello. Vedi, già quelle sono ormai tutto sommato le moto di oggi, dai, le moto più standard. Una cosa che posso vantare almeno del 1000 è che non consuma tanto, mi aspettavo tanto tempo fa che consumasse di più e invece no, consuma relativamente poco. No, non me l'aspettavo nemmeno io, pensavo consumasse di più, ma comunque ti do anche ragione, ma siccome a me la mia 50 è molto, lo sai cosa si siede? Qua dobbiamo andare a fare commissioni veloci, tipo documenti, allora diciamo in moto, e però non a mia moglie gli piacciono le moto grosse. Mi piacciono le moto grosse, però non vuole allo stesso tempo che me la compri, perché ti spiego anche perché c'è molto un amico che io conoscevo da bambino, era bravissimo in moto, eppure ci è rimasto così, non si capisce manco come, perché era rettilineo, quindi hanno visto la moto che sbandava di colpo, erano tutti quanti in greffa, stavano andando a fare un giro in moto tutti insieme, la strada Santa Teresa, purtroppo lui ci aveva Kawasaki Ninja. Peccato, magari non si potrà mai sapere cosa sia successo, però in effetti sì, se non è per colpa di altri, vabbè che... Attenzione, può succedere in macchina, può succedere a piedi, può succedere in moto, quindi qualsiasi cosa se deve succedere, succede. E poi, tutto sommato, per esempio, io di mio sto facendo la scelta di cederla a qualcun altro appassionato, anche perché tutto sommato io me la sono goduta negli ultimi anni. Va bene, mi sono fatto i miei giretti d'estate, mi ho portato avanti e indietro, me la sono ben sfruttata, ho popolato un pochino, ho comprato un futurino nuovo, un po' di cosettine, e quindi andava bene. Poi te ne rimane una. Aspetta, dicevi? Aspetta, te ne rimane sempre una di moto. No, molto grossa ne ho una, Ma non mi hai detto che avevi anche il modello B? No. Oh, la una sola, l'FZR 1000 del 91. Vabbè, comunque lo schitterone è molto comodo, l'unica cosa che c'ha è che se la batteria non va, non l'ha messa in moto, ti lascia a piedi. È per quello che io ho sempre, ho fatto la presa accendisigari e la seconda batteria all'interno. Ah sì, ce l'ho anch'io, la presa accendisigari praticamente ce l'ho anch'io, ma batteria non ne ho. Comunque quella lì è una moto che con la batteria, grazie a Dio, io ce l'ho già quasi 3 anni, faccio 3 anni a settembre, e diciamo che la batteria anche col freddo io la tengo fuori, non si scarica, l'ho tenuta ferma 4-5 mesi, non mi siamo separati al primo colpo. Sai cos'è? Infatti le moto anche come la tua montano molto veramente, non so se l'avrei notato, hai visto che la tua c'è una parte che mi sa di sì, la montano quelle lì, però non l'ho mai aperta, ti dico la verità, non l'ho mai toccata, grazie a Dio non c'è mai stato bisogno. Se tu mi dici dove la luce avete la batteria, non lo so perché non ho mai guardato manco il libretto. Sai che c'è, in caso di emergenza, il busterino ce l'hai, te lo sei comprato? C'è quello della Black & Decker, quello che si attacca direttamente alla cedicina. Ecco, per esempio, avere il busterino minimo, quindi non dico che tanto te ne accorgi, se già come stai partendo la mattina vedi che ti facci lecca, sai che più di tanto non ti devi fidare a lasciarla ferma, devi procedere con il cambio subito. Oppure se vedi che ti fa quello scherzo, te lo porti appresso. Infatti. Non so dove ce l'ha. L'attacco della cedicigola mia non ce l'ha sotto la sera come tante volte, c'è il cofanetto davanti, dopo il cofanetto dentro il cofanetto. E c'ha lo spazio per appoggiarci il cellulare. Sì. Infatti sono. Lo tecnologico ormai, no? Quello della mia 50 è sotto la sella. K. Vabbè, quello ne ha moltissimi di spazi per mettere gli straccetti, insomma, da una parte ci tengo tutte le immaginette, la croce benedetta, dall'altra ci metto gli straccetti. Guarda, lo straccetto, lo spago, i guanti in lattice, una torcia, una busta di spazzatura, minimo devono starci, altri gli attrezzi. E io ce li ho, c'ho tutto quanto, c'ho la torcia, c'ho lo spago, c'ho tutto quanto. La torcia ce l'hai a batteria o di quelle che ti agitano? No, a batteria. Io un giorno un amico mi ha fatto di quelle torce che si hanno un condensatore con una microbatteria che si fa da tampone. Almeno quanti anni dovrebbe durare prima di dover cambiare la batteria? Quanta? Però in caso di emergenza, per sotto si ha una... Vabbè, c'è un amico che ce l'ha a mano lenta, la carica a mano lenta. Tu le carichi e ti dura un bel po' la luce, non è che si spegne così e ti dura un bel po'. Poi devi stare sempre cariche, cosa mai? Sembriamo nei tempi di minnanna. Intanto quanti soldi sta preso quello che ha fatto il brevetto della radio a manovella che l'ha mandata in Africa? Pagata. Beh, vabbè. E ognuno ha le sue, là. Diciamo che comunque tutte queste altre accessori qua tengo anche la bomboletta per la ruota se dovessi bucare. Giusto, giusto, vedi quella l'ho tolta dallo scooterone, ce l'ho nella moto grossa e nel piccolino, però nello scooterone non ce l'ho, infatti devo rimetterlo, devo assicurarmi di che l'abbia rimesso. Non so se ce l'ho invece la sacchetta sotto la sella, quella che ogni volta, sì, perché quando ci metto il casco devo sempre spostare una piccola sacchettina, solamente ce l'ho messa lì dentro. Non so se funziona ancora dopo tanti anni. Qua io una volta sono andato a pescare, mi si è attaccato questo tipo, che non era la solita persona piacevole, che ti piace parlarci e cosa. Si è avvicinato, già io l'ho visto che era una persona abbastanza tatuata, tutto busuari. Io stavo cercando anche un po' di vita, di quella vita, perché certa gente non mi piace molto. Ma questo si è avvicinato e tu mi dirai cosa c'è da con la bomboletta, dopo ti spiegherò. Si è avvicinato e ha cominciato a raccontarmi tutta la sua vita, che lui era incensurato e che una volta però dice che gli è capitato che ha visto un posto di blocco, si è spaventato, ha cominciato a correre con la macchina, la polizia l'ha perseguita però l'ha arrestato. Vabbè, da lì dice ha cominciato la sua serie di cose che non doveva fare. Là. E a un certo punto mi hanno detto, mi sposto da qua perché vedo che non sta mangiando. E lui mi ha detto, vabbè, io mi sto prendendo, intanto non venuto. Ha preso, se ne stava andando. Poi lo vedo ritornato, io no, caro, io non mi ero nemmeno spostato perché l'ho detto apposta per farsi andare. E ritorno indietro, cago, pa, mi dice che c'è una grossa. Mi ha detto, e cosa è successo? Ho bucato la volta, sono venuto in moto e ho bucato, non so come ti fare, vabbè, ti aiuto io, pur di farcela andare, gli ho regalato la bomboletta che avevo dell'altra moto che avevo venuto, gli avevo tolto la bomboletta e l'avevo messa in macchina, per fortuna. Mi ha regalato la bomboletta, la gonfietta se n'è andata, vedi, tante volte è servito. Non sai mai a cosa può servire, o ti porta a casa o comunque ti permette di rientrare a casa in ogni caso. A me è servito per togliermi dalle scatole una persona psicosa. È giusto, perché niente ti poteva dire, però poteva dimostrarti magari non si sa mai, un pericolo o qualcosa che gira di testa o chissà cosa. Comunque hai mandato a casa lui, sei tornato a casa tua e tutta forza ti sei sotto un peso. Beh, no, io non dovevo andare a casa, io devo stare lì a pescare, ma era solo una scusa perché non mi andava, a pelle lo sentivo che era una persona poco fidabile. Dai, 5 euro di bomboletta, stanno fatto risparmiare un sacco di tempo di scatole, di perdita di tempo, e magari non pescare perché c'era lui. Sì, infatti poi ho cominciato a pescare, ti volevo dire quello, come ti sei andato e cominciato a prendere Sara, di quello, quella, vabbè, già va bene così. Cazzo di ragione. Dai, qua il computer va ok, quindi porta avanti che adesso devo finire entro stasera che domani c'ho altro. Adesso tutti a casa, tutti assieme a casa. Penso di sì, no, ma non mi auguro. A meno che abbiano organizzato qualche cosa, ma non mi abbiamo detto niente, ce ne sono andati a mangiare in pizzeria. Ma poi eri riuscito a organizzare qualcosa o le tette hanno aspettato tutto? No, io ho detto che non andava il periodo delle feste, che non andava perché già avevamo piedi roba da mangiare dagli uffi. A mia moglie il giorno dopo mi ha trovato di nuovo l'agnello che c'era il giorno prima, ha detto buttalo via, non me lo presentare davanti perché già ne ho sin troppo sui capelli e non ne voglio più vedere. Per cui gli ho detto organizziamo, quando sono passato un po' le feste, magari un sabato, una domenica, boh. E infatti un sabato va bene, però infatti lontano dalle feste, perché anch'io adesso sto ancora smaltendo, devo recuperare il peso preso, e poi già farò attenzione, magari sono in frequenza, se ne parla. Gianni, ne approfitto che ho il microfono, se tu dici un attimino dopo il lavoro che sto facendo qua, e lascio la parola acceso, non so per quanto posso tenere sotto controllo, diciamo, una logica di questo, però farò un po' di sforzo. Ne approfitto allora, è stata 3:51, è stato un piacere, qualche minuto abbiamo cambiato due chiacchiere, io bene o male faccio molto ascolto, perché non posso stare molto tempo magari occupato col microfono, però bene o male già sono sempre sotto. Gli apparati li faccio lavorare un po' l'altro, così li mando un video che possono. Saluto di nuovo, stando parlando questo, va per te Gianni. Ciao, ci sentiamo, va. Come ho ben sentito, buon proseguimento, va. Tanto lo so che sta facendo qualche lavoretto e non puoi lasciarlo stare, va. Ho già preso tutto, va. Ci sentiamo, buona giornata per domani. E tante cose belle, là, già ci sentiamo. Poi magari, come abbiamo detto tempo fa, una domenica mattina parlo con Giovanni, abbiamo appuntamento del giorno prima e perdiamo un'oretta di persona, dai. Dai, a dopo. Ciao, ci sentiamo. Non riesco più a registrare col telefono e non ho capito. volte perché è successo qualcosa. Ho provato, ero convinto di farvelo sentire, invece non è scoppiato di stare, si è barrato. Fatto sta che, guarda, siamo fatti tante di quelle risate di da Falchetto, perché per la fine Falchetto è andato a mangiare, non si ne complica più nulla. Capo, però fammelo vedere, posso sapere che cosa è successo già. Già, sto rientrando da 15 minuti, sono rientrato, Dico solo, sono rientrato da 15 minuti. Oggi è stata una gran giornata, bruttissima, ho un mal di schiena, non ti dico le gambe come ce le ho. 108 consegne. Loro già sono contenti, ma carta di grippa così. Lo so, non possiamo immaginare la stanchezza che c'è addosso. Sono morto, no? Praticamente ci siamo fermati all'ora di pranzo e poi siamo partiti subito per caricare e quindi non c'è stato neanche riposo, diciamo. Niente, quindi puoi immaginare come sono. C'ho un mal di schiena e poi quella moto lì, ho cambiato la moto e guarda, c'ho la schiena a pizzi, non ne posso più. Adesso il meccanico ce l'ha l'altra moto. No, il meccanico non ce l'ha ancora, perché io oggi non ho avuto tempo, perché mi ha alzato veloce al telefono e domani mattina vado e gli smettono le orecchie. Gaba. 108 consegne, grazie, raggio compreso. Ma si permette anche per essere a parte grave. Sì. Se pare, chi è che ti ha preso la voce al telefono principale? No, lui non sto parlando nemmeno, il meccanico l'ho chiamato, da dirgli che passavo, lo prendevo, lo portavo in una moto e lo portavo in officina, e mi ha alzato le voci, ha detto che lui non aveva da fare, che lui non era vestito la vita, che era qua, era a posto, un telefono. Arrivare che mi aveva detto quello vicino, ancora dietro a me, e poi in quel momento proprio c'erano rappresentate della fiamma e quindi non potevo parlare, però domani mattina vado e gli metto un pochettino di orecchia su per tu. Non mi dice a me, ma tanto le volte. Allucinante. Io lo so, il bambino è che lui crede di prendere la voce e lui è. Sono letteralmente a pizzo. Vai Giuseppe, vai. Sì, grazie Pierpaolo, scusate per la sovrapposizione, dai. Niente, comunque il tipo, se si permette di fare certe cose, forse per adesso gli va bene il lavoro, ma io non giubito bene, in parentesi, come ti fanno prendo Simoro, travaglio a coso, a Iosa, ma nel giro di un mese, Pierpa, ne ho visto gente io mi toccare il fondo, e diglielo tranquillamente quando gliele stai spezzando le orecchie. No, domani mattina glielo diciamo, domani mattina, presto pure per non dimenticarcene, le leggiamo, così almeno non si permette mai più a me di alzarmi le voci, perché l'ho già fatto un'altra volta per una sciocchezza e l'ho lasciato perdere, questa volta non lo lascio più perdere. Vai alla grande. Ma vedi che tassa di vino non ne tocca più, Tormato non ne tocca più, no? Ah, che pure un amico è Torba, aspetta, come te lo chiamavano? Giovantino. Ha la sindrome di Cellemosti. Se gli piace il Tormato, e lui Tormato c'è. Tormato c'è le mosca. La sindrome c'è le mosca. Sì, appunto, però di là si trova a essere mosca, no? Che spagano? Lui, per fare. Lo c'è tutto il zitto, liscio. Ubriaco che la vena, e lui, cosa tu ti ha detto? Non si comprendeva nulla. A me metto, tu sei troppo forte, troppo, troppo. senso. Non lo sento più. Ah, domani a te niente. Tu sai che ci sei innamorato di Charlie. Te l'ho spiegato, gli ho dato alcune dritte all'inizio. Però le ho date antenna, non antenna 1, ma a coso, come si chiama l'altro, K2. Deve essere che siamo un amici o che cosa, e lui deve essere, se si ricorda il mio nome, come? Oh, Gianni. Ma, Gianni non sa che abbia tendenze strane, lì. Ma lo sai cosa mi è successo nel telefono? Quando tu vuoi ascoltare la registrazione ti appare la mezza pagina bianca e si vede lo sfondo del telefono. Ho capito le cose. Ah, cosa? Non avevo ricordi? Non avevo ricordo che c'ha una cosa. Non devi far vedere, come fa? Perché la registrazione l'ho fatta, ve la volevo far sentire, invece non ce l'ho fatta. Calma. Riprende, me lo vuole un attimo, che io vado a capo una sciacquatina, mi do una sciacquata, una saponata, una sciacquata, veloce. Adesso ho finito il tuo, dentro io. E poi vado a mangiare anche qualcosa, ma vediamo. Riprendete voi un attimo. Già quando stai lavorando un bel, quando stai lavorando un bel, sei già stanco, la voce ti rivolge di là, ti bruci dalle sciatole. E Giuseppe, tornato, e niente, io stavo ascoltando Pierpaolo, ma alla voce sembra praticamente distrutto veramente, già. Non te l'ha detto che ha fatto, ha mangiato a pranzo, si sono usciti, però sono bombolai, quindi ti puoi immaginare. Infatti, quelli quanto ha detto, 100, 108. 106 o 108 corsi, adesso. Cazzo, mi sono un po' già mica, se la schiena, io a casa ci sarei rientrato forse in carrozzella. Sono due sì. Vabbè, quando io mi scarico anche 10 pedane di roba da solo. Oh, quello già è vero, anche il nostro già non è leggero di lavoro. E io, diciamo, non è che mi posso lamentare più di tanto perché già abbiamo la gru sul camion. Però mi rivolgo e devi stare un po' attento, mio, già. Però credo, col vetro poi non si scherza. Ma figurati, ascoltami, oh Gianni, ma stavi parlando con qua di coso, di antenna 1. Ecco, ma chi si non sarà di così macchi canotti da stare un coso torna con la aiutami a dire, con la telescopica no, e con la canna da pesca. No, ma la canna da pesca non è possibile, so che c'è la parte fina sopra. Perché io ho visto le previsioni del tempo, non è che questi magari si prendono una fulminata a casa e li barrici tutti e due, no? E così la voce non mi viene più. Cioè, ma non gli fa male a questo caso farsi un fumo così? C'è gente che lo fa come abitui queste cose qua. C'è gente che poi finisce anche a farsi la pipì addosso, diventano proprio stracci. Sì, andare, cazzo, mi andate, cazzo, che per i decini. Cazzo, se io ne bevo un bicchiere in più, cazzo, comincia a girare tutto quanto, pure se sono compusato. Ma io non sono abituato proprio. Però lo vengo, se per dire, a casa di Natalino era un bel tempo che non bevevo. A casa di Natalino abbiamo fatto la seminata, mi ha tolto questo vino, ce n'era un litro me l'ha giubito. Mi ha fatto cantare un po' allegro, ho fatto ridere a tutti e andava così, però io mi davo bene. Però va bene così già, perché se uno beve e sta in compagnia, ma deve essere così, non è che cazzo ti buoni in chiavi al baracchino a fare i tiraglienti, dai. Se è un po' confuso, ho detto, ma le uova sode, bevutele, mangiatele, le uova sode, ma cosa, ho detto, per farti il fondo, non sai che, tu lo sai bene, se non ti fa il fondo, ti imbriagheggi, invece se c'è il fondo, ti assorbe il vino, non ti fa ubriacare. Ah, non ho bevuto. Se sai cosa mi son perso, cazzo. Un attimino, che c'è il bambino che sta facendo a muovere, un attimino. Dobbiamo fare dei civili per chiamarti Tornado, però che se non puoi si chiama Giuseppe, perché continuano a chiamarti Giuseppe, quindi Tornado è il tuo nome attivo adesso. Oh Gianni, dici Tornado è Tornado sul 21. Tornado? Tornado è Tornado, vediamo un po' se è Tornado qualcuno, se ci risponde. K2 ci sei sul 21, cambio. Ma detto che chiudeva, lascia la funzione, non ti preoccupare, no, se un governo di ebro mi giuriva, non è doppio. Guarda, Oggia, io guarda, mai mi sono fisciato, a momenti mi fiscio quando eravate tu e fermavo in macchina, quando era dei Zecchendi, quando gli siete andati quasi sotto casa lì via Rosello, cazzo, ma una cosa che non si credi, alla lucciola, da voi dici che era Dalghero, cazzo, era tutto quanto un casino in capo di liscio, eh. Sì, poi dice un po' di cose insensate, ma sai cose che pensa durante il giorno, tutte mi schiacce, capito? Ma io mi auguro che sia solo affare di Beozia per questo ragazzo, perché dalla voce mi sembra anche giovane già. Sai cosa ti dico? Che anche io ho pensato che ci sia qualche cosa di menomazione. Caffa. Ho pensato anch'io la verità, come va il strano che tanto ti sia così chissimo. E infatti io già dall'altra sera ci stavo pensando, perché ho detto mannaggia, ho detto con tutti i problemi che ci sono in questo mondo, ho detto possibile che ci sia gente che si lascia andare così, però effettivamente pure a me mi ha dato quell'impressione lì, dai, perché proprio la cadenza del coso era, perlomeno a me mi ha dato proprio quell'impressione lì, che ci sia sotto appena appena di meno. Se è così mi sento proprio la cacchetta. Oh, comunque si può subito controllare, facciamo un giro di radio taxi qui a Sassari, Gianni, e poi vediamo un pochino lì in Piazza Tola, tanto si vede subito l'antenna lì fuori. Sì, ma radio taxi non c'entra nulla con radio taxi, l'ho fregato con un paio di domande che ti ho fatto. La radio taxi proprio non c'entra nulla. Gli ho detto che frequenta modulava. Dice no, siamo col baracchino, sì, col baracchino è per il taxi, ah boh. E se non sei tu che non devi sapere, quindi più un taxi. No, è tutto uno scherzo. Infatti di quello me ne sono accorto, perché come gli hai fatto quella domanda, guarda, prima che lui mettesse in moto un attimino il suo cervello, gli ho detto Gianni Avabazzi, primiera, siete belli una scoppa con quella domanda, perché io ero pronto a giocarmi il battesimo che loro non erano in grado di risponderti già, e così è stato. Infatti, perché non era veritiera la cosa, e io raccolto l'ombra di male per non trovarli, no? A parte che questa gente qui penso proprio che concessione non ne abbia. A dirti la verità ne sono sicuro anch'io, perché gente che modula seriamente, cioè certe coglionate non le fa Gianni, perché se io ad esempio entro sul 21 e so di trovare amici, so anche come comportarmi, cioè non entri per rompere le palle agli altri, dai. Ma in effetti già siamo vivendo dato la serata, non ci siamo mai stati tutti così sino a tardi, e invece l'altra la sera siamo tutti sino a tardi proprio perché viene da arrivare. Poi, ma quando vai, ti ricordi le tue cose, Pierpaolo? Cazzo, era di pisciati in macchina mio, già. Perché all'inizio sembrava quasi uno un po' di delinquenti, no? Che vuole rompere il cazzo, ma dopo Ho capito, se ne consideriamo barava, poi diceva cose insensate, parole buttate così, allucinanti. Ma secondo Pierpaolo gli ha detto, guarda che io sono di fronte al circolo La Lucciola con un Preassi e poi dice, vorrei trovarci ai vari accordi ad Alghero, cioè cose che non attaccavano né a muri né a porte mio già. La ditta pure la retromarcia che era la strada che andava a Alghero, poi l'altra che andava a Torres. Ma io guarda, credimi, io avevo mia moglie dietro, io ero con le cuffie perché guarda non me la sono perduto manco un filo di quel discorso lì. Ogni tanto mi pigliava mamma, dite ma fa cosa sei ridendo, ecco. Ho detto guarda, lasciami zitto che sembravamo a coso, a scherzi a parte già. Vabbè, questi personaggi del capitano, ci sono anche quelli che quando sono contibinati non fanno, ma quando sono così tranquilli non te ne frega niente, sì che sono così, ti rallegrano la serata. Sai la cosa più bella cosa è stata Gianni? Che c'è passata l'ora, perlomeno io dico per me, io manco me ne sono accorto tra un coso e l'altro, poi anche Fanchetto, che dice ehi, io faccio la cosa la plepo, chiedo che mi ha fatto venicana di coso, mi dà giù un po' giù mezza tazza e te lo giocotto pure io e non mi posato. Addirittura ahi. Ma giusto per stare in cose, in compagnia, mi già, è così che bisogna fare, cioè bisogna, niente, bisogna prenderla così e via. Poi quando trovi i tipi così, ma ben vengano, dai, che poi hai visto come è stato, ha fatto l'entrata, è stato un fuoco di paglia, poi si è scusato e gira gira ci stavamo bene anche noi. Allora, sì, è vero, è vero. Si è scusato, oggi mi ha baciato il capo, culo. Scusate però perché si comprendiamo da quanti la vita. Oh, mamma mia, carica. Ero da tempo senza cosa che mi venisse il dolore dietro le orecchie a forza di ridere così già. Gli ho detto se sabato. Se sabato si facevano sentire, no? No, io non so, non so, faceva la ballata. Ma chissà che rientrino più tardi, adesso vediamo un pochino se riusciamo a pescare qualcosa. Allora manca a vedere chi c'ha caglienti, Scolo, di solito lui fa così, lo dice che fa correnti e poi rientra, non so se tu l'hai mai operato, l'ha fatto per due o tre volte con me così. Ma tutte le volte che lo sentite racconto, non lo sento mai una volta sopra. Speriamo, ma io mi auguro che sia cotto veramente di vino, case, perché effettivamente, guarda, mi dispiace perché oramai la gente, anch'io bene o male, la conosco, in 47 anni che ho, prossimo ai 48 ho già, la gente la conosco, dai. E mi auguro, guarda, per lui di tutto cuore che sia cottura di vino e, o che non sia altro, anche se, ripeto, la cottura di vino a quell'età lì è una cosa veramente non seria, no, io oserei dire anche grave. Sì, se il cotto di vino è alcolizzato proprio quello lì, perché ogni volta che lo sente cotto. Eia, e non è quello. Se ti dico io facevo fatica a sentirlo in cuffia, figuratevi voi lì in macchina, senza le cuffie già. Noi avevamo una troppa parte grande, già lo sentivamo, lo sentivamo però non si capiva cosa diceva. E quello è il problema, era quello. Sì, niente, perché arrivato a un certo punto cominciava a accelerare, cioè era tutto un ragionamento, tutto canto a contusoio. Vabbè, e cosa vuoi fare? È una scena, è una scena. Quando si comportava così, e cosa gli puoi dire? Ah, niente, già, a me quello che mi ha fatto più cosa è stato Natalino oggi, tanto è poverino se si è pigliato rogoso l'influenza. Deve essere, altro che una gara di battuta. Sì, ma. Può darci che fosse anche un po' abbattuto dal fatto che ha finito di lavorare anche quello di... Beh, anche quello, mannaggia, cazzo, ma io dico, cazzo, ma quando mai, cazzo, arrivati a un certo coso, ci dobbiamo mettere anche mille problemi, e fa una cosa, e fa un'altra, e fa un travaglio, e quando ti senti male, o quando hai un problema in famiglia, cazzo, è già bu. Purtroppo la vita è così, però bisogna cercare sempre di andare avanti e di lottare. Quello è. Se io dovessi pensare a tutto quello che mi è successo durante l'anno, quest'anno, mi dovrei suicidare allora. No, quello no, già, per l'amor di Dio, però io dico, stando insieme, una in una maniera o nell'altra, io sono sicuro che una soluzione da qualche parte si trova, perché più ti rinchiudi dentro di te, peggio è, correggimi se sto sbagliando. Beh, certo, deve avere un punto d'appiglio però. C'è un punto d'appiglio per attaccarti, sì, ma quando ti senti magari solo, non aiuta più da nessun attorno, eccetera, eccetera, e quella è la ragione. Lì infatti è che mi ha lasciato un po' così, perché a quanto ho capito io vive da solo Natalino, vero Gianni? Sì, sì. Figurati, cioè una persona che già ha i suoi problemi, sai, e quelle così. E ti dico la verità, quando abbiamo chiuso, non lo so, mi è dispiaciuto veramente già, devo essere sincero. Io lo sento domani mattina, intanto ci sentiamo. No, ma forse è anche stanco, molte volte si stanca. Magari si addormenta, tante volte quando non sai cosa fare, la noia stessa ti fa ti sballa. Sì, quello sì, non vedevo legate come legate questi sbadigli che non sai manco da dove stiano arrivando. Beh, bisogna essere attivi. Io in questo periodo ti ho parlato, mi è contagiato. Lo sbadiglio è maledetto, Migia, basta solo nominarlo che sta arrivando. niente, con questo periodo qua io anche l'apparato io non avevo, perché non potevo né guidare. Adesso ultimamente sì, ma il periodo scorso non potevo guidare, dopo che sono stato operato, prima quando camminavo male, non ce la facevo a guidare nemmeno, quindi... Cosa facevo? Uscivo a piedi, non uscivo. Lo so Gianni, però io dico anche questo, che tu hai avuto anche almeno la costanza di stare anche in mezzo alla gente, o sbaglio? Beh sì, certo che io vabbè, c'è anche la famiglia, è diverso, io sono a casa con mia moglie, con i miei figli. C'è quella di fronte che viene, che è amica di mia moglie, e vengono le figlie, insomma, c'è la metà da cura, se te la vai. Sì, e beh, su quello dai, hai ragione già, di quello me ne ero completamente dimenticato, ed è una cosa grande, dai, sempre una famiglia, un punto d'appoggio, una qualsiasi cosa, dai, lì non ti posso dare torto. È diverso, poi qualche volta sono uscito a piedi con le stampelle, piano piano, quando ce la facevo a camminare, ma andavo da Giulio e facevamo una chiacchierata così, ogni tanto, ma non è difficile camminare così, non è difficile, ti stacchi un po' con le stampelle, mi sono venuti dietro dove c'è... proprio dal coso che girano, quella mezzaluna che gira della stampella, mi ha fatto le piaghe nel braccio. Ci credo, e poi figurati, poi soprattutto il ginocchio e dove passa tutto il peso del corpo, e proprio l'articolazione della gamba, dove piega la gamba, io ne so qualcosa, io il ginocchio sinistro che grosso modo si può dire va bene per fare a brodo mio già, è andato anche questo che non ne può più, dolori, delle volte mi si blocca e via dicendo, cioè, anzi sono anni che sto lottando io con questo ginocchio. Un consiglio lo vuoi? Dimmi Gianni. Vai al Ghero. e fatti vedere, ad Albiero, guarda, ci sono dei professori, c'è un professore che è molto bravo, ma come si chiama? Ma adesso mi sta venendo un lapsus. Essa è del paese, Punta si chiama. Ah, ho capito Gianni, e un salto si può sempre fare, ma per farmelo guardare, perché ti ripeto, io ci sono dei momenti, o quando sono seduto, oppure quando mi alzo dal letto, devo stare attento, se no proprio mi si punta e non riesco ad alzarmi. Quello lì è dovuto al menisco, lo sai, lo sai. Lo so già lo so, già lo so io quello che sto passando ultimamente con questo ginocchio. Vabbè, non te lo puoi far fare l'intervento al menisco e non ci pensi più pure. Lì devo trovare il tempo per potermi fermare già, perché il discorso di giù è che se manca l'autista si ferma il mezzo e ritorniamo sempre a bomba. Non ce n'è altro autista? Ce n'è un altro, però il camion che ho io ancora non lo prende, mi hai capito? No, ho capito. Tu molti anni ci sei? 24 anni qui, Gianni. Allora già. Dove ce l'ha messo il deposito? Hai presente Viale Porto Torres e la lavanderia Torres, ce l'hai presente? Yes. Di fronte. E portate roba all'ingrosso, portate. Sì, diciamo che noi, da noi arrivano gli articolati con le chiamiamo gabbie noi, no? Sono imballate in gabbie di, diciamo, in legno, dai. E poi distribuiamo per tutta la Sardegna, sono gabbie da 20, 22, 26 quintali l'una. Ma ho capito. Voi togliete i funghi, diciamo così chiamati, da funghi di vetro. Sì, ci sono le lastre di vetro per ogni imballo, ad esempio ce ne ho un tot, se sono tipo vetri per finestra, che ne so, ce ne possono essere 36, diciamo, lastre, se sono antiproiettile ce ne possono essere 4, perché quelle antiproiettile sono, se prendi un 36-38 che ne so, che montano in banca, possono arrivare anche a 3 lastre per cosa, per casa già. Vabbè, sono più spesso quelle. Sì, ho capito che tipo di lavoro fai. Tu lo distribuisci, ma sono già divise, quando tu le porti sul camion sono già divise per scaricare. No, non divise già, per ogni cliente, tu ad esempio sei un vetraio, no? E ti occorre una cassa di vetro, che ne so, antisfondamento, e ce ne sono di varie cose, no? Di vari spessori, e ad esempio un 6-7 che varia da un 6 a un 7 mm, a un 8-9, un 10-11, oppure un anti, che ne so, un antirapina, un antimazza, quello che è. Tu dici, mi occorre questo e quest'altro, e io carico, che ne so, Gianni mi ha ordinato una cassa di 6-7, una cassa di antiproiettile e, che ne so, una cassa di antivandalismo, e io so che devo venire da te, apro la gru e ti devo scaricare 3 casse. Quindi solo a casa si può ordinare, no? Lastre sfuse? No, lastre sfuse da noi no, Gianni, perché quello lì è il lavoro che fa il vetraio. Ecco, io già mi immaginavo il camion con la parte di potetto così, la parte obliqua così per mettere il vetro sopra. Allora, noi abbiamo sì capriata, la capriata c'è, però la nostra, quella che ho io, è tutta in ferro, è giusto proprio per caricare le casse in legno. Ecco, da pagare. Vabbè, questo è, diciamo, un po' di grosso lavoro, invece che se al dettaglio come lo fanno i vetrai, eh. È positivo Gianni, in pratica se al vetraio manca qualcosa può venire da noi con il suo camioncino e quello che gli manca, discuso lo può prendere tranquillamente. Quindi sono venuti anche così, sì, anche all'Astri. Sì, all'Astri quando vengono loro. Ah, ecco. Voi però non rischiate a portare. È già una cosa buona, quella lì. Sì, perché noi non facciamo proprio servizio, diciamo, all'altra, capito? Noi facciamo il servizio e poi facciamo alle, c'è il magazziniere insieme a un'altra persona che fa il minuto, vetrai che non possono, che ne so, portare lastre di una certa misura perché hanno il motocarro, ci sono tanti vetrai che hanno il motocarro, e una lastra di vetro varia dai 2,40 di altezza o 2,60 ai 3,30, mi capisci già? Beh, quello lì in quel caso già provate pure. No, in quel caso se non hanno la possibilità di ritirarla intera, gli si fa un taglio, perché abbiamo anche i banchi per poter tagliare, per dare servizio al cliente. Ah, ecco, ecco. Ho capito. Anche il cristallo basta. Tutto Gianni, se ti serve qualcosa tu fammelo sapere e in una maniera o nell'altra si fa, non preoccuparti. No, no, non c'è perché cosa, una volta il tavolino piccolo, adesso non ce l'ho più, ho fatto la sala di festa, no, con un salottino all'ingresso e il salone era grande, ma come era disposto c'era il tavolino piccolo, le poltrone, un divano grande che girava tutto attorno. E questo tavolino c'aveva delle ventose sotto per tenere questo cristallo. Un giorno io stavo guardando il televisore, sai come fai con i piedi, e muovi, ti metti i piedi sopra il tavolino, muovi che ti muovi, cazzo, lunga, c'è questa lentera spaccata. Sono andato a una vetreria, 150 euro questo cristallo. E allora buona, ma qual era quello cristallo tondo o quello rettangolare? Mi pare che li facessero in vetro fumese, non mi ricordo male. Rettangolare no, era disegnato, c'era un disegno particolare, capito? C'aveva in tutto il quadrato era disegnato, c'aveva due strisce e non so come viene intaccato. Sì, quelli richiamano, sono sappiati Gianni. Ci ha fatto pagare così, infatti c'è un vento rovino, quello che c'è dove c'è musica lì. Ah, ho capito, a fianco a quello che vende macchine. E al gommista, sì, dove c'è musica proprio senza letto. Cappa Gianni, li conosco molto bene quelli, li serviamo anche noi. Cava. Ma poi quel tavolino lì l'ho regalato a un'amica che ha avuto bisogno, si stava sposando, io stavo cambiando la sala e ho dato quello lì e la cosa, la cristalliera. Vai tranquillo Gianni, vai, passa di cacculo e non ti preoccupare. No, non mi devi no che è il mezzo pericoloso, via. Cava. Comunque... Diciamo che è un lavoro, tu lavori solo con la gru, precedere quelle casse a mano fino al bagno. No, non ce la fai, no, già, per forza di cosa devi lavorare con la gru. E dove riesco a entrare dentro con il camion vai dentro, oppure devi lavorare da fuori, ma ti devo dire chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi in un ingresso di 2 metri ci vuol far passare un 2,60, e cioè roba da mafie. Fatta che privati. No, solo vetrai Gianni, solo vetrai, però per tutta la Sardegna. E beh, lì sono talmente tutti che le misure le conosco. Sì, le conoscono e siccome sono talmente furbi che non hanno in realtà cercano di mettertene in culo perché e proprio credimi, se ne fanno uscire gli occhi e secondo dove vai a scaricare se ne fanno uscire gli occhi senza nominare nessuno. Anche nel Nuorese c'è una vetreria che guarda e quando devo andare io la sera ho la febbre. Ci sono dei clienti che vengono preso attaccati al muro, no, il mio lavoro è molto manuale. io diciamo che guido il furgone nell'Assisa, porto la roba a ristoranti, abbiamo appalti comunali degli asili, delle scuole, insomma, detersivi per le scuole, gli asili, anche la roba da mangiare, oltre ai detersivi, questa roba qua, frutta, carne, verdura, tutta questa roba qua. E in più facciamo anche le consegne a domicilio, che deve fare le scale. Ah, ho capito Gianni, io ho un amico che ha il fratello che lavora qui per la Fisa, quella che c'è giù a Capovela. No, ma io lì non c'ho niente a che fare, cioè adesso quello è il centro di distribuzione delle merci nostro. Noi siamo praticamente su Cisisa, noi abbiamo 16 negozi. Ah, ho capito Gianni, ho capito. E invece questo mio amico qui è con la, non so se l'hai mai sentita nominare, la STCM. Sì, sì, sì. E lui sta con Mario. Ah, sono due fratelli, uno è robusto, non lo so se è stato dimagrito, l'altro un po' più magro. Sì, sì, li conosco molto bene. Veniva anche da noi qui, sì, sì, sì. C'è problema, si portava la roba di salumi, formaggi, quella roba lì. Sì, sì, in pratica diciamo di sì. E ti dico anche una cosa, a me è capitato un giorno di essere in ferie e di essere stato chiamato da una persona che faceva autista per questa società qui, no? E siccome ha avuto dei problemi non poteva guidare, ero andato io insieme a lui e ci siamo girati in mezza Sardegna, mezza Sardegna con un daily, con una cella frigo. Ci credo. No, io qui la fuori non riuscivo più a farli, li ho fatti con la prima, mi è bastata, partivo alle 4 di mattina, tornavo alle 9 e mezza, 10 di sera, finta non ce n'era. Allora non c'avevo tempo manco di cercarmi la ragazza, ho detto, che cavolo, sono giovane, se non lo faccio adesso cosa lo faccio? Beh già, arrivato a un certo punto sì, ma oggi come oggi, attenzione, ce n'è così, che fai, esci al buio e rientri al buio a casa. Quando rientravamo, capito, dovevi andare, molte volte dovevi fermarti lì, fino a quando caricavi non te ne andavi, per il domani, e domani ripartivi nuovo alle 4, era uno stress. Lo so Gianni, figurati che stamattina da noi in stabilimento è arrivato un autista di Terralba e ha scaricato da noi, è andato via alle 3, cioè prima di andare via alle 3 è arrivata una telefonata non chiamiamolo principale, dai che è brutto, dal suo datore di lavoro, chiedendogli se in macchina, in camion, aveva della roba per potersi cambiare, perché lui stasera avrebbe dovuto dormire a Olbia, cioè ma ti immagini dopo che questo ragazzo qui era dalle 2 di mattina in giro. Per forza poi succedono gli incidenti, manco l'ora di riposo lo fanno fare. Esatto, ma tu devi vedere questo ragazzo quando è arrivato da noi, era Luca stamattina era uno straccio, però non va bene così, dai. Oh, io mi sono rifiutato, ho detto non ce la faccio, mi dispiace, ma non ho roba e più non ce la faccio, come sono stanco, sono dalle 2 di mattina in giro. Ma figurati, ci hanno dovuto telefonare giù in stabilimento e dire una bugia al tipo, no? E dirgli che eravamo incasinati noi giù in stabilimento perché eravamo senza corrente elettrica, mi hai capito? E quindi non potevate scaricare? Beh, noi, loro stavano scaricando, hai capito, anche se la corrente c'era, però giusto per salvare il culo anche a questo ragazzo qui, dai, certe cose si possono fare tranquillamente. Vabbè, cavolo. E quindi poi se l'è scampata? Sì, se l'è scampata perché poi quando sono rientrato io erano, che ore erano? Le 4 mi pare, 4 meno un quarto, e ci siamo trovati lì alle Porto Torre, lui scendo da stabilimento, io rientrando, e lui stava andando in direzione Cagliari di nuovo. Figurati. poco, poi gli danno 4 centimi, molti di te gli danno 1000 euro a questi autisti, hanno padre di professionale, gli danno 1000 euro. E io ecco, lo scontato che si lamenta. Oh già, e quello è vero, è quello che stai dicendo, e magari potrebbero essere anche 1300 euro, però tu calcola le ore di lavoro che fai, calcola anche quello che abbiamo dovuto fare noi autisti un paio di mesi fa, non so se hai saputo di questo 5-5 che abbiamo dovuto fare a nostre spese. Sì, sì, io so tutto, ha fatto anche Natalia. Figurati, io sono dovuto andare qui alla scuola guida che c'è di Branca qui in via Farcoli e l'ho dovuto fare, e l'azienda, credimi Gianni, come un fratello te lo sto dicendo, non mi ha riconosciuto un centesimo. Perché quello lì è roba tua personale, la scheda per il dischetto voi la usate, cosa usate, il dischetto oppure la scheda? No, io uso la carta del conducente, perché in questo calcolo di macchina nuova c'è il tachigrafo digitale già. Ah, anche quelli si possono camuffare, lo sai. Veramente? Ho letto su internet, cioè ho visto un filmato su internet, capisci, a televisione, questo qua va alla Iveco e chiede se praticamente con un articolato e chiede se può modificare sia per la velocità sia per le soste, perché il datore di lavoro praticamente non voleva fare le soste, voleva che continuasse, però lui aveva sempre la paura che magari lo fermasse le cose, allora ha detto sì, si può fare questo, allora, facendo così gli ha detto spende 1600 euro per l'altra modifica 1300, ah, no, anzi aspetta, quello del Iveco gli ha detto che loro non la facevano, gli ha detto dove posso andare, e vado in quell'officina che so che la fa, e allora ha detto sì, sì, la facciamo, gli ha detto preso tutto quanto, questo che guidava l'autotreno era un attore di cose, di come si chiama, di paperissima. Fatto sta che è andato lì, gli ha detto ti prendi tutto quanto, poi entra nell'officina e in grande c'era scritto morta autista dopo aver fatto una sopravvivenza consecutiva senza aver fatto i riposi dovuti. Cazzo, si è girato questo qui, ha detto scusi, ma lei fa le modifiche per non fare i riposi e poi ha il coraggio di attaccare anche questo manifesto. Noi siamo, gli ho detto, di canale 5, questo e quell'altro, io sono un attore, ho fatto tutta questa scena perché se ne vada, no, lei che cosa va a vedere, prometto di non fare più di queste cose, cazzo di avvenuto. Ah, hai visto già, te l'immagini, e hanno tolto questo tachigrafo digitale perché ti registra anche i respiri che fai in cabina. Riesco a modificare tutto adesso. Oh, hai mai sentito quello, adesso non mi ricordo se era tedesco o non so cosa, che l'hanno beccato lì sull'autostrada del sole con il laser? Questo poliziotto dice è rimasto allucinato perché il laser segnava 120 km all'ora, no? E l'hanno fermato e gli hanno controllato il tachigrafo digitale. Anche il poliziotto ha detto, ma secondo me qui c'è qualcosa che non va nel laser, perché è impossibile che un camion carico così cammini a quella velocità. Però poi, quando lui stava scendendo già, si sono accorti che gli è caduto qualcosa di tasca e gli avevano messo un telecomando piccolino in coso, no? E lui, come vedeva la polizia, doveva mandare il segnale al tachigrafo e ritornava di nuovo normale. Immagini che cosa sono riusciti a combinare questa gente qui. E quello gliel'ha fatto vedere a me col telecomando vicino. Telecomando che l'ha fatto vedere, ha fatto vedere come funzionava, sia col telecomando oppure fatto un telefonino nascosto dove voleva lui. Esatto Gianni, allora vedi, stiamo parlando della stessa cosa, però io ti posso dire una cosa, ma molto tranquillamente, anche se io quel mestiere lo faccio, non è giusto però, non è giusto perché non va bene, tu metti a rischio la tua vita, metti a rischio soprattutto la vita degli altri, ci sono tante persone che escono con la famiglia, con bambini, fanno una passeggiata, oppure è gente che con la famiglia si deve spostare per qualsiasi necessità Gianni, e non devono trovare le cose di avere paura di potersi mettere in macchina, perché? Perché io sto andando e sto guidando con gli occhi chiusi, perché il riposo l'artista lo deve fare. Beh, è giusto che sia così, è normale, lo deve fare. Ma poi bastano 5 minuti, io mi ricordo che quando andavamo a ballare, una volta stavo tornando da Alghero, ero tutto carico di ragazze, c'ero solo io, un ragazzo, tra l'altro era una donna. Ho detto, ragazzi, scusatemi, ma io mi devo riposare 5 minuti. Ma perché? Cosa sei? Sei male? No, mi sto addormentando, è meglio che mi riposi 5 minuti. Oh, sono stato 5 minuti di orologio, mi sono ringalluzzito. E ti do ragione, ma io guarda, Gianni, come ti ho detto poco fa, sono 24 anni in questa ditta e qualche altro annetto me l'ho fatto, no, qui e là come autista. Però ti ripeto, adesso non so se siamo noi due qui solo che stiamo modulando, no? Però magari se ci dovesse essere qualcuno che ci sta ascoltando, ti dico, non mi vergogno a dirti che a me, quando viene il classico abbiocco, metto freccia Gianni, un quarto d'ora, spengo la macchina, mi metto un quarto d'ora con gli occhi chiusi, anche se mi rendo conto che non sto dormendo, però mi dà più, cioè mi ricarico un pochino, mi hai capito? E riesco a arrivare a casa. E ti do un certo sollievo, normale. Io mi sono fermato in quella chiesa che c'era lì, era Landrica, lì. Siamo fermati in quello spiazzoli, 5 minuti di orologio. Oh, sono ripartito, mi sentivo ringalluzzito, dice, beh già, tranquillo, sì, non vi preoccupate. Era un colpo di sonno, c'erano i riguardi a mezzo di manzana. Ma ci sta Gianni, ci sta la grande, tu figurati che io quando faccio la Maddalena, io da casa esco alle 2, alle 3 sono in stabilimento e sto partendo, perché è carico, 3 ore mi occorrono e alle 6 sono giù a Palau, perché per forza di cose devo prendere il primo traghetto, perché quando faccio la Maddalena non mi danno solo la Maddalena da fare, mi hai capito? Prima si faceva così, poi hanno cominciato dalla Maddalena, aggiungi Arzachena, da Arzachena aggiungi Olbia oppure Tempio. Beh, se no poi metto un po' vuoto. Infatti, ed ecco per quello che ti dico io, no, non è contare solo l'ora che parti dallo stabilimento, hai capito? No, per me conta l'ora quando ti mi pesi già. Beh, è certo che non deve essere... deve essere masito, ma come si travaglia, guidare magari a chi piace lo fa tranquillamente, ma dico non deve essere bello alzarsi presto, io l'ho fatto e non era bello per niente, mi scombussolava tutta la giornata, mi sentivo questo vuoto strano, mamma mia, smussurato brutto. Io ti dico una cosa, oh già, io domani mattina alle 6 sono in piedi, no, però non mi pesa perché ormai dopo tanti anni io di sabato e di domenica sono in piedi da presto, delle volte anche alle 3 io sono sveglio. Succede, dai, capita così, che dopo che ti abitui a un certo orario, anche la domenica, come succede a me, non è che sia lontano, anche a me succede, mi alzo sempre alla solita ora, solo adesso mi stava succedendo, quando ero così, infortunio, mi addormentavo, non so cosa mi succedeva, che sto dormendo un po'. Non lo so se è proprio una questione del fisico che richiede in questi momenti magari per riposarsi, eccetera, eccetera, quando succedono queste cose qua, però dormi con me. Ma secondo me, lo sai che cos'è quello? Già, io ho malattia, diciamo che ne ho conosciuto e non le ho conosciuto, perché in tutti gli anni che sono qui ne ho fatto forse due volte di malattia, però è successo, ti dico la verità, è successo anche a me così, essendo qui a casa, cioè dormire a nastro. Non lo so cosa dipenda, però mi permetto anche parlando così al bar di blu. Probabilmente, specialmente in questo periodo, mi alzo anche tardi la mattina. Adesso vabbè, no, perché sto portando i bambini a scuola e mi sveglia mia moglie per andare. Perché lei lo fa tutto l'anno, giustamente, di riposarsi almeno in questo periodo. Ci mancherebbe altro. Comunque non preoccuparti, vedrai che quando rientri al lavoro si risolve tutto, perché l'ha fatto anche a me. Se c'era mia moglie che mi diceva, ma insomma, ti vedo giù, ecco. Poi io non sono giù, proprio era il fisico che mi richiedeva quel cosoligia. Non so, forse magari ho un pochino di noia, o forse perché ero abituato a stare sempre in movimento, mi vedevo qui a casa, mi hai capito? E chiuso a me mi prendeva così. Tornato, aspetta che c'è Marco che ti vuole salutare il piccolino, aspetta. Salut. Ciao. Ciao piccolino, io sono Giuseppe, ciao Marco. Giuseppe, sei nuovo. Non ho copiato già, scusa. Da quanto tempo tu sei? Guarda, io ci sono un paio di settimane qui, piccoli. La sua manager è bene il baracchino. Sì. E sai che io sono là oggi che ho comprato il telefono nuovo. Caspita, e che telefono ha preso? Samsung. Ah, bello, lo sai, ce l'ho anch'io un Samsung. Bene. Il mio è grigio chiaro. Non lo so. Ma perché non so, bel telefono quello. Ma dimmi una cosa, tu in che scuola stai andando? Terza elementare. Scappato se ne... Giuseppe. Caspita, oh, se continua così è un buon, ne viene fuori un buon radioamatore già. Perché? Tanto. Diciamo che è molto sveglio, si ricorda la gente che entra tutto quanto, capito? A Natale non lo fa, lo chiama Facinito. Avanti. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio, ben trovato. Gamba, sono stato morto stasera. Sollevamento fisico. Parrocchio. Vai che va bene così, l'estate si sta avvicinando, fisicaccio da sballo, cambio. Proprio l'estate si avvicina. E noi la faccetta ce l'abbiamo ancora, Anto, mannaggia. Sono bene. Siamo vado rossi che mi fanno di mare. Ma ho sentito che per Paolo avete sballato una grande oggi, Oggi si è sgombato forte. Mannaggia, è duro anche il vostro di lavoro e a tu, caspita. Controlla ancora, qua è alternata forte qua io. Donna del cielo, non ho capito già chi è che ha preso il telefono nuovo. Come lo era? Si è accostumato all'altro? Sì. Tanti non si vedono più, niente. Tanto li dura un mese. Lo sappiamo già. Adesso la fame, che cosa vuoi fare? Una ciambata di 40.000. Che messaggi sono quelli? Allora, qui è veloce. È velocissimo, capito? Lo fa con due dita. Se lo prende in mano, lo fa con i due pollici. E lavora come una macchinetta. c'è nulla, non c'è niente. Trovatemi una brasiliana. Vengo io, dai, ti faccio un po' di massaggio. No, lo chiedo proprio no. Tu non sei né brasiliana né brasiliano, quindi... Mi sono sovrapposto io, chiedo perdono. No, no, c'era un piccolino, c'era. Marcolino. Sì. Mi chiamo io e mi porto via tutti. Non so che c'è, come vedete? Non ho capito niente. Non lo toccare. Perché? Il mafio gli tiro qui. Attenti, lo fate arrabbiare. Titti è il nostro gatto. Ho tornato, Titti, il nostro gatto. È tornato, si è allontanato, forse c'era la bambina che stava piangendo. E quindi per parlare da batosta. Oh, yeah. Sì. Non lo sanno loro. Quanto si fatica. Pierpaolo, presente Giuseppe, mi sono assentato proprio due secondi perché mia moglie sta cominciando a non cavarne più piedi. Cambio! Pierpaolo, però, chi sei? No, è trovato goccia a goccia anche tu, no? Pierpaolo, però, chi sei nel canale 21? Tu sei facilito allora. E tu sei facilito più D'Artagnan. Uguale D'Artagnan facilito. Ciao Antonio. Ciao Marcolì. Dai, no, vabbè. Stavo scherzando, dai, stavo scherzando. Non dico più, dai. Io l'ho capito, ma mi innervosisco quando dite queste cose. Mai che succede, ok? Va bene, non dico più. Non ti chiamerò mai più facilito, va bene? Spero che sia. Mi lui. No, non ti chiamo più facilito. È pagato. Ehi, è sentato a voi, non sei così. Ehi, a capri lui, va. Sei brutto di Natalino. Un attimo di bianco che c'è capri lui. L'ha presa diversa, eh? Un L509 voglio, cioè, puoi scrivere tu al limite se vuoi. Se riesci, se guardavi come erano le scritte prima, ti fotografavi una cosa e le scrivi dentro a scrivere. Vabbè, se esce bene, complimenti. Comunque sono le L e L, così, ecco L come Livorno. Adesso decidi lontano a vederlo esteriormente, ma non già si può trasformare la roba, non lo metti in dubbio, se uno non si dà da fare già lo trasforma. Avanti, Tornados. Eccolo qui il Tornados de Todos. Niente, io Capri 2 più che salutarlo non posso fare, perché come ho detto poc'anzi proprio non l'ho copiato per niente. No, lui non so se mi sente, spero che gli arrivino i miei saluti, ma buio completo Gianni. Capri 2 non siete a Tornado. Pero ahora estoy en un momento de ser, vamos a iniciar, yo no tengo conversión, cabrón. io niente, eppure il suo segnale è abbastanza buono. Non ascolti nulla di radio. È radio zero. È proprio la radio che c'ha forte, cavolo, è strano, strano. Ascolta, dimmi una cosa, non è fighi, come ce l'hai? È al massimo. Al massimo di apertura? Prova a girare dall'altra parte. È tutto a sinistra, Gianni. Tutto a sinistra. E allora è chiuso. Prova tutto a destra. Vedi un po' così. Ma devi vedere un po' la palla, capri due. Apri due. Oh, negativo Gianni, negativo. No, no, proprio non ti sente, boh, è strano. Va bene, a questo punto passiamo tutto a Antonio, poi fa girare. Ma ti sei chiaro quanto trae, perché? Fai parlare Capri 2, te lo dico subito. E poi se no andiamo al mondo, se mi gioco 280 euro e vediamo le valvole, vai, che fai? Strano, no, facendo a Giuseppe, che strano non ti sembra, quanto è Santiago, Giuseppe? Santiago è quasi 5, Pierpaolo. 5 di Santiago non lo ascolti in radio. È negativo, Pierpaolo. E come può essere Santiago 5 non lo ascolti in radio? Radio 0. Oh, è strano già, con Santiago 5. Pensavo che avesse l'RFG chiuso, pensavo quello. Infatti detto, magari da ieri ha lasciato le figli chiuse, non lo sente per quello, perché magari non le arriva forte forte, ma se le arriva di Santiago le deve arrivare anche di radio, è normale, quella dei capote non è di quelle deboli, forse per quelle deboli ha detto ma magari per quello, ma grazie a Dio si va a sentire di... Io Gianni, c'ero tutto a sinistra, perché se no come lo giro a destra, perdo subito la voce di chi sta volando. Oh, boh, è chiaro, come Santiago di 5 non ascoltavamo le radio. Boh, ho toccato qualcosa, non lo so. Non lo so. Vabbè. E poi ritornato, c'è Antonio, c'è Pierpaolo, buona cosa. Tornato ci si. Lo riprendi il telefono dalla bambina. Comunque, c'è 30 euro l'una, è un bel, è caro che ci vuole, visto che rimane a pagare così. C'è a caro adesso che può pagare così. Per me è troppo. Si può cercare, si trova di meglio. Da poi magari l'hai anche trattati, dai. Ma quella dicitura lì non usava le stesse che ha una persona le valvole. Costavano 20 euro l'una quelle. Come 131. E costa di 219 euro. Appunto. Come 131 con una valvola. Per quel prezzo di 4 valvole cesse. Capri 2. Per quel prezzo di 4 valvole. Giove della Zeta Dilmi, 131. Mi pare che attualmente ne ha uno disponibile su Saro, di 131, a una valvola. E ci dà un 120 watt sicuri. Sì, la valvola per le valvole, Tornato, eh? Tornato, riprende, ma non so da dove riprendere io, Gianni, perché sono veramente fuori dal mondo. Allora, praticamente tu devi avere la pazienza, aspettare 2 o 3 giorni e poi ti entrerai con noi al mondo. Comunque, no, a parte gli scherzi, stavo parlando di valvole, perché gli hanno regalato questo Liliane che l'ha dismesso proprio tutta ruggidita e cose, siccome il KP2 ha la pazienza e la passione di restaurare le cose antiche, vecchie, restaura moto, restaura macchine antiche, se lo fa per ubbia, perché non è il suo mestiere, lo fa proprio le vernici, ricambia la pizza del motore, e quindi l'ha accettato, gliel'hanno regalato e se lo deve rifare tutto a nuovo, solo che le valvole ce ne ha 4 cosa, 70 euro l'una. Sì, su quello avevo capito. Comunque, le R519 stasera le buschiamo, non ti preoccupare. c'è OR8-11 e poi tra parentesi 273 centimetri con uno zero piccolino, una O, che vuol dire? Oh, zero piccolino. Sì, allora c'è 8, te le dico in ordine, si considerano le seguenti lunghezze: 8 saranno, presumo, 8 metri, 17, 27, 40, 59 e 78. Questi dovrebbero essere i metri per poter utilizzare questa antenna e dargli le prestazioni migliori, ok? No, la prima misura è 1,73 5,46 8,48 12,34 17,98 e 23,77. Dopo il 23,77 aumentare sempre di 2,73. Ma 2,73 che cosa intendi tu, Pierpaolo? 2 metri e 73 centimetri. Ah, eccolo, adesso ho capito com'è che funziona. Adesso ho capito, perché adesso sto capendo anch'io questa storia qui. Quindi è 2 metri e 73 centimetri la prima opzione che dà per poter utilizzare al meglio questa antenna qui. Sarebbe un quarto d'onda, questa è quella da mezza onda, che è 5,46, questa è quella che è poco più di tre quarti d'onda, 8,48, 8,48 significa sempre 8 metri e 48 centimetri, poi c'è l'onda intera, che è 12 metri e 34 centimetri, poi c'è un'onda e mezzo, 17,98 si riferisce sempre a 17 metri e 98 centimetri, da piede si parla, Poi c'è l'altra, l'ultima, che è 23 metri e 77 centimetri. Dopo i 23 e 77 centimetri bisogna aggiungere sempre 2,73, sono stati 23 metri, altri 2,73 centimetri. Capito? E questo è la regione da rispettare perché sia nell'ordine giusto. Ho capito, Pierpaolo, adesso ho capito il perché. E allora è su che mi hanno fatto casino alla GPC, poi ti spiegherò anche il perché, dai. Ah, perché ti altrimenti non è neanche un'onda, così è. Perché loro qui, non sai invece cosa mi hanno dato, 17 metri di cavo. 17 metri di cavo non rientri nella onda e mezzo, non ci rientri 17 metri giusti. No, perché 17 metri è 98, a 17 metri sei fuori, non c'è lo stesso, non ti dà stazionaria, però non ci si rientra con l'onda. Lo so Pierpa, perché sicuramente loro qui hanno confuso qualcosa, perché nei 5 metri 46 che dici tu, guarda sulla tua sinistra dopo l'11, sicuramente loro hanno invertito il fattore, perché loro hanno preso il 17 per 17 metri di cavo che mi hanno dato, o sto sbagliando io? Pagava. Non parla, sono dei pannelli. seminario di cui si dice tanto che lui l'ha provato, ci ha fatto presente le valvole, funzionava. Guarda che in quell'ideale non è ancora la gente, io ho fatto un lavoro con il tenente, ci aveva i trasformatori di, come si chiama, le variabili, anche qualche uno che l'ha bloccato, non può dire con dei prodotti. Prima di attaccarlo, prima che salti tu e lui. Adesso controlliamo tutti i componenti che ci abbia stati lì. Ne sono originali, perché io ho lo schema, adesso ne ho a casa di componenti che lasciano le valvole, cambiamo, e poi lo attacco quando ci sono le valvole. Capa chiave. Adesso non lo fanno più con quelle valvole, te l'hanno detto. Quello lì che cos'è? Il 2001. Tutti i chili viene a Sassari e c'è di tutto, c'è sono i negozi, io mi compro un paio di pantaloni di cui l'Italia ha calibrato e ce ne ritrovi, insomma, trovi tutto. Ma che stiamo disegnando? La c'è un fatto di scherzi. sembrano dimenticati da Dio. Il paese è tranquillo, tutto quello che vuoi, però se non ci sono le necessità, ogni volta ti devi muovere, devi andare a Ossi, che c'è la macelleria lì. E diciamo che non è che sia un paese dove ci sia tutto, ecco. Vai a Penfuga, se vai in altri paesi, ci sono tutte queste cose qua. Poi vuoi comprarti, non c'è manco un negozio, penso, di filati fili, roba del genere, di roba intima, roba così ce n'è. Cos'è qua, ce ne so. autista, ad alfi interpretare. Yeah. fare. Io ho un amico che è brutto di faccia, se tu lo vedi è brutto. Però ci sa fare con le ragazze, perché abbiamo un po' l'altro, tutte belle ragazze. Eppure se tu lo vedi c'è dei tifori, è brutto di fisico, è brutto dirlo, però è così. Grazie. che c'è lì, che c'è lì. No, ma c'è il nemico vicino, però non può parlare. Beh. Eccolo. Dissero sì o no, puoi o non puoi. Posso. Scappa. Niente di manganello, poi. Poi. E la dovrebbe la maestà. Ah, comunque. Ma te li scherzi. Ce ne sono di questi vecchiavi che vanno con le prove e loro ne approfittano perché devi succiare il trucco, si fanno intestare il conto anche a loro e succhiano tutto il conto e poi via. Come sia solo quello. Due, più di uno è comunque di quelle che serve che cresci dai soldi. Tanti pensavo che era una cosa. c'è 3 o 4 anni dell'arma, non potevi sposare. Buongiorno. Non io, ma c'erano i miei zii. La piscina da parte dei figli di mia mamma, e sapevo che ero capito, non potevo aspettare. A per 28 anni non si potevano sposare, e loro erano stati i tantissimi anni. E l'arma che tu sei di servizio, per esempio, con i nipoti di Assassari, che pigliavano la ragazza di Assassari, subito in quattro piedi si trasferiva. Capito qui una cosa già, che stiamo andando, che uno della femminilità si ha preso una che è separata, quello qua non so come le guardavano più, ma venivano un po' sentire, io lo so, perché arrivavano, avevo anche un più formazione all'epoca. Arrivavano queste cose già di che per cazzarsi, per cazzar femminile, non questo, capito? Non tenevano sotto controllo una famiglia intera, capito? Rischiava che il qui, se c'era, diciamo, il padre che faceva una cosa, mettersi con una vicente che era sposata, non so come era, con una figlia, ripeto. E avanti, avanti. Va bene, dai, io voglio dare la buonanotte a tutti perché sono stanchissimo stasera, no, non fa rimanere. Buonanotte a Giuseppe, Capri 2 e a tutti i componenti, e tutte le persone che ascoltano, anche a te già. Un passo a tutti in cuore di buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte, tanto ci sentiamo domani. Avanti Pietro. Tanto sono uscito da Pio Pio, proprio ci ho messo l'orecchio, Pio Pio ti ascolto, però già miglioriamo, quello è che miglioriamo. Ed è sempre un piacere fare queste con voi, perché prima diciamo che all'epoca guardano, ogni tanto si cambiavano di canale, purtroppo, qui diciamo sono più gratuiti. Le credi in pietà? Capo, quello io. Io passo in QRT perché sono stanchissimo, oggi è stata una giornata molto dura, dai. Passo in QRT e vi saluto tutti quanti, circolari, saluto i circolari a tutti. Vi auguro per domani, se la riascoltiamo tocca alle prossime. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao, per pace, andiamo. Ciao Pierpaolo, ci sentiamo e ne approfitto per salutare tutta la ruota, anche Giuseppe va in QRT, ci sentiamo alle prossime, buonanotte a tutti. Ciao Tomà, dai, fammi sapere domani cosa è combinato, vabbè, vabbè. A non sbidere, ciao ciao, ciao. Avanti Capri. Ciao Pierpaolo, allora, non so se stai chiudendo in questo momento, non cammino. Se stai chiudendo, dai, con corretti, ci sentiamo domani, se no, zio, se vuoi rimanere non c'è problema. Sono le 10 e mezza, già vado per il passaggio, adesso, poi chiudo anche io. Giusto perché ce l'ho per Paolo e noi, che io non posso trattenere però qui di turbo. Hai capito? Che ci metto le cuffie. La stazione se lo metti a casa e quindi è meglio molte volte farne a meno perché anche gli altri devono dormire. Ok, se riesci a fare il tavolo fammi sapere qualcosa comunque, perché guarda, la cifra che ho già al collo quelle valvole lì costavano così. Vabbè, vabbè, comunque non c'è problema. Ciao, ci sentiamo, capisco, stavi bene. Buon rinforzo, buona smorcia, smorcia 44. Ciao.